pallidi ancora imburrati di foschie, risatine come monete soffiate nei caffè, facce ingenue appena truccate di tenera euforia, occhi chiari, laghi gemelli, occhi dolci amari. Le ho viste fra cemento e cupole d'oro che il vento spazza via, sotto pensiline che aspettano il sole e loro tram, coprirsi bene il cuore in mezzo a sandali e vecchie camicie fantasia. E a qualcuno, sole ubriaco che vomita sul mondo. Io le ho viste portare fiori e poi fuggire via e provare a dire qualcosa in un italiano strano. Io le ho viste coi capelli di sabbia raccolti nei foulard e un dolore nuovo e lontano tenuto per la mano. Che non venne mai, volo di cicogne con ali di cera ancora io. Le ho viste far la fila con impazienza davanti ai gelatai, quando il cielo stufo d'inverno promette un po' di blu, piccole regine fra statue di eroi e di operai, lievi spine d'ansia nei petti rotondi e bianchi. Le ho viste eccitate, buffe, sudate per la felicità, negli alberghi dove si balla a gridare l'allegria e bere birra e chiudere di fuori la solita neve da realtà e ballare alcune tra loro e ballare e poi ballare. Nelle sere quando son chiuse le fabbriche, le vie sulle labbra vaghi sorrisi di attesa, chissà che scrivere sui vetri ghiacciati le loro fantasie, povere belle donne innamorate d'amore della vita, le ragazze del